sicuramente chi negli ultimi mesi ha scelto un'auto ecologica conveniente per il portafoglio, oltre che rispettosa per l'ambiente. Allora, noi parliamo di questo settore, di questo ambito stamattina, perché è stata divulgata una ricerca molto interessante che ha un po' esplorato anche le abitudini degli italiani in questo senso. Stamattina saluto e ringrazio per essere con noi Emanuele Anzaghi, fondatore e amministratore delegato di cercaassicurazioni.it. Anzaghi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto faccio un pochino il biglietto da visita della sua società. È un servizio di comparazione online di assicurazioni auto. Sono presenti, se non ho capito male, 18 compagnie di assicurazione, e quindi è sicuramente un osservatorio privilegiato dal quale raccogliere dati sulle immatricolazioni. Il boom di auto ecologico, ovviamente incentivato anche proprio dagli incentivi, scusate il gioco di parole, degli ultimi anni, si è fermato, Anzaghi? Beh, negli ultimi mesi abbiamo registrato sicuramente una pesante flessione da quando sono venuti meno gli incentivi statali, anche se siamo a livelli decisamente superiori rispetto al valore medio del nostro parco circolante, nel quale la componente di auto ecologica è pari a circa il 4%, cioè adesso siamo ben oltre il 10%. L'auto ecologica, Anzaghi, magari spieghiamola agli ascoltatori che non lo sanno che cosa sia. Ovviamente non è quella alimentata ad acqua o chissà quale tipo di carburante, ma insomma parliamo dei nuovi tipi di appunto di carburante, nuovi tipi, il metano, il gas, e quindi non più la benzina, in sostanza. Sì, esatto, partiamo da auto che sono a doppia alimentazione, quindi benzina più GPL, benzina più metano, per arrivare alle auto elettriche o alle auto a solo metano, oppure alle ibride benzina più elettrico. Ecco, voi avete questo portale, questo motore di ricerca che compara le tariffe assicurative. Perché avete voluto esplorare anche le abitudini degli italiani sull'utilizzo di auto a basso consumo o meno? Ma abbiamo colto l'opportunità di avere un database di circa 150-200.000 transazioni al mese in termini di comparazione. Noi in ognuna di queste transazioni registriamo tutti i dati relativi al veicolo, e quindi da questo costruiamo un osservatorio che ci dà in primis tutti i dati sull'andamento dei prezzi delle assicurazioni, ma anche evidentemente importanti trend sugli autoveicoli o sui conducenti. Da quanto emerge dalla vostra ricerca, la situazione cambia molto a seconda della zona. Com'è distribuita la presenza di auto ecologiche in Italia? Quali sono le regioni che fanno da capofila, che sono le migliori in termini di abitudini e anche di acquisto? Perché poi ovviamente l'auto ne costi poco, quindi si tratta di un investimento che deve essere anche ben pensato all'interno della famiglia. Anzaghi. Certo, beh, allora innanzitutto noi abbiamo osservato che nel primo semestre di quest'anno l'immatricolazione di auto ecologiche ha superato mediamente il 20%, che quindi è più di 4 volte il dato medio storico italiano. Ci sono grosse differenze tra le regioni. L'Emilia-Romagna è la regione che ha un parco di immatricolazioni maggiore sull'ecologico, parliamo del 32%, seguita dal Piemonte, 28,8%. E è abbastanza curioso notare che sia anche il nord che conclude, che chiude la classifica, nel senso che le regioni in cui si vendono meno auto ecologiche sono la Valle d'Aosta, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Incredibile. Negli ultimi posti, leggo qualche dettaglio della vostra indagine, della graduatoria, compaiono province settentrionali come Trieste, Sondrio o Imperia, probabilmente a causa, e questo è un bel problema, del ridotto numero di distributori di GPL e di metano presenti sul territorio. Praticamente in certi casi, per esempio per quello che riguarda il metano, la rete autostradale è quasi completamente sprovvista, Anzaghi. Sì, purtroppo la copertura è ancora molto macchia di leopardo, anche nelle grandi città dove apparentemente questa copertura c'è, e poi se si va a fare un rapporto fra i veicoli circolanti a metano, il numero di benzinai, ad esempio a Milano ce ne sono 6 su oltre 15-20.000 auto a metano, quindi decisamente pochi, troppo pochi. Ecco, per cercarli però qualche volta, questo è un altro tema che abbiamo affrontato tante volte, a soldi e dintorni, a volte ci si deve un po' spendere, perdere un po' di tempo cercando anche delle guide sul web, partendo dai motori di ricerca, è però insomma qualche volta anche un po' complicato, soprattutto per chi viaggia molto per lavoro, né che poi abbia il tempo di partire dopo aver fatto una ricerca del distributore appunto di gas o GPL più vicino al suo percorso. Gli incentivi, dicevamo, Anzaghi, al momento sono fermi, forse più in avanti insomma si ritornerà ad una politica di aiuto al settore che ha fatto anche tanto discutere in passato, ma secondo lei per spingere di più questo mercato, anche perché in Italia abbiamo un parco auto piuttosto vecchio, bisogna ritornare solo su questa strada? Qual è insomma la sua sensazione? Ma mi sembra che la leva fiscale, nel bene o nel male, quindi in forma di incentivo o di punizione nel caso, tra virgolette, nel caso di auto che inquinino molto, sia comunque un elemento importante, e questo, diciamo, l'esito di questi incentivi lo dimostra. Poi è evidente che non conta soltanto vendere auto che possono essere ecologiche, ma anche farle utilizzare, perché la maggior parte di queste auto di cui parliamo sono auto a doppia alimentazione, quindi si può averla acquistata per utilizzarla esclusivamente a benzina, quindi è importante incrementare la rete. Anzaghi, un'ultima domanda prima di salutarla. Lei si occupa particolarmente di, soprattutto di settore assicurativo. Abbiamo a lungo anche discusso da questi microfoni, ma anche da Salvadanaio, dell'aumento delle RC auto degli ultimi anni. C'è stato un monito molto severo dell'ISVA per recentemente. Attenendoci al tema che affrontiamo stamattina, l'auto ecologica, se l'assicurazione costa nella stessa misura naturalmente acquistando un'auto di questo tipo, se ci fosse qualche incentivo anche da questo punto di vista, sarebbe secondo lei una novità interessante? Un'assicurazione magari studiata per questo tipo di veicolo, che potrebbe essere, teniamo conto che normalmente sono veicoli un pochino più costosi e con appunto una, diciamo, una parte meccanica un po' più complessa, e mi risulta che il premio dell'assicurazione sia normalmente invece allineato a una macchina normale, quindi una qualche minima forma di incentivo è già contenuta. Probabilmente si potrebbero studiare dei prodotti anche per, ad hoc, anche perché stiamo parlando di una nicchia in, di clienti che probabilmente ha delle appunto specificità che andrebbero esplorate. Un incentivo che insomma passi da un'altra strada. La ringrazio, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Emanuele Anzaghi, ricordo, fondatore e amministratore delegato di cercaassicurazioni.it. Alessandro. Oh Deborah, mi danno del grande giornalista, perché ho scoperto ora che le ciliegie costano 6 euro in su. È un po' ironico l'ascoltatore. Non lo so, faccio il giornalista ma sono un essere umano. Alle 8.32 minuti ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora i 800 24 00 24, per intervenire in diretta gli sms al 349 238 6666. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di patente di guida e di limiti di età. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, un vecchio adagio che io conoscevo era quello: donna al volante, pericolo costante. Guardando la nostra sala Spreafico in redazione, magari qualcosa è anche vero di questo adagio, chi lo sa? Qualcuno dice ora: nonno al volante, pericolo costante. Bisognerebbe prenderla così. Sta di fatto che l'onorevole Mario Valducci, che saluto, buongiorno onorevole. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Presidente della Commissione Trasporti alla Camera, ha lanciato un'idea, poi se ne discuterà, poi chissà che ne sarà. Insomma, ha detto forse è il caso a 80-85 anni, insomma, poi vediamo, ma di porre un limite di età per la patente. Che ce l'ha coi nonni lei, coi nonni arzilli, Presidente Valducci? No, assolutamente no. Voglio dire che il contesto era... Parlavamo della riforma del codice, dicevamo come il codice della strada è un cantiere aperto, sempre soggetto a modifiche, e sicuramente si profila all'orizzonte un dato penso innegabile, cioè ovvero che l'età media aumenta, per fortuna di tutti noi, la società italiana ed europea invecchia e indubbiamente, così come c'è un limite inferiore, ho gettato, diciamo, la provocazione di un limite superiore. Ma è chiaro che la mia ha voluto essere una provocazione, anche se, nonostante non siano così frequenti il numero di incidenti mortali che sono coinvolti o coinvolgono persone, diciamo, grandi, chiamiamole così, è vero che i riflessi vengono meno, che i vari sensi diminuiscono, e io ho avuto testimonianza di due genitori che hanno avuto figli uccisi, diciamo, da persone grandi che magari non si erano resi conto di avere sotto la macchina la figlia perché non avevano più l'udito e quindi non avevano sentito le urla. Quindi insomma in qualche modo si pone il problema, anche sì. Perché, e concludo, ricordo che dopo i 70 anni gli esami si fanno ogni 3 anni. E devo dire si fanno purtroppo in Italia, per tutti, anche per noi che si fanno ogni 5-10 anni, con molta leggerezza. E io le faccio l'esempio mio casalingo, in modo tale che così non diciamo andiamo a toccare la sensibilità di nessun altro. Mio padre ha 80 anni, ha, diciamo, una malattia per cui alcune settimane, se non addirittura alcuni mesi all'anno, ha difficoltà visive, nel senso che proprio chiede a mia mamma, che non guida, che spesso è seduta al suo fianco, il colore dei semafori. Ha fatto settimana scorsa l'esame, diciamo, medico e l'ha tranquillamente superato. E come, e lei, la validità è 3 anni. E lei, allora, lei cos'è? Io penso, magari non consideriamo il limite di età, ma forse una riflessione su quanto detto va fatta. Sì, sulla serietà anche degli esami. Comunque noi, Presidente, abbiamo chiamato ovviamente per accerchiarla un pochettina degli ultra ottantenni che magari si saranno un po' adombrati o non lo so. Intanto voglio salutare Margherita Hack, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Voglio salutare anche, ci sta ascoltando, Alfredo Diana, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Alfredo Diana è stato un politico, è stato anche ministro, credo tra il 92, 93 e 94 il governo Ciampi. Esatto. Allora Margherita Hack, intanto lei guida, lo so che a una donna non si chiede, ma insomma ci dica. Io ho 88 anni, 88 anni. E non ho nessun problema a guidare. Però ha sentito, è inevitabile che i riflessi siano magari un po' più allentati. Però c'è anche la competitività che diminuisce. Oggi siamo più pazienti, diciamo. E d'altra parte quello che si dovrebbe fare è di fare revisioni della patente più serie, vedere effettivamente uno di 90 anni può essere capacissimo di guidare e uno di 70 no, dipende dalle persone. Quindi lei questa idea di un limite che Presidente Valducci dice, no, anche se... io propongo esami e revisione della patente più seri. Esami e revisione della patente. Ma a lei sinceramente non è mai capitato di dire, non so, avere più distrazione legata proprio al fatto... No, no. No, anzi, quello che noto io, mentre io sono molto competitiva e quando avevo 20 anni se uno mi sorpassava partivo subito in tromba. Mentre ora invece dico, ma chi me lo fa fare? Non fa queste scene. No, certo. Io invece vorrei chiedere Alfredo Diana, io non so se Valducci ha letto sul Mattino la sua lettera. Qua Alfredo Diana, ex ministro dell'agricoltura, ha preso carta e penna, ha scritto al Mattino, al direttore del Mattino, leggendo di questa proposta e concludendo così. Guido e leggo senza obbligo di occhiali. Stando le cose, vorrei sfidare l'onorevole Valducci a una gara di regolarità su strada e su qualsiasi percorso. Allora, senatore Diana, eccoci qua. Vuole sfidare il presidente Valducci? Eccolo qua, gli dica ciò che pensa della sua proposta. Mi pare una proposta decisamente fuori luogo, perché è vero che noi viviamo più a lungo. È anche vero che noi arriviamo a 80 anni, anche a 85 anni, in condizioni assai migliori di quelle in cui arrivavano i nostri genitori e i nostri nonni. Quindi se è vero che la vita si modificano anche le condizioni di vita. Mio nonno probabilmente a 80 anni non avrebbe potuto guidare la macchina. Io, per grazia di Dio, sono ancora in condizioni di farlo. E non vedo perché, se sono gli esami i colpevoli, o per meglio dire i medici che fanno gli esami, gli oculisti che fanno gli esami, che non fanno il loro dovere e che rilasciano le patenti senza avere passato veramente in rassegna l'aspirante guidatore, e allora bisogna intervenire sui medici. Perché il ministro Valducci, perché il presidente Valducci non se la prende con chi ha rilasciato la patente a suo padre senza averlo visitato? Beh, io sì, sono però... stato visitato dall'ACI all'Automobile Club di Rosignano Marittimo, previo appuntamento, visita medica, visita oculistica, e soltanto dopo mi hanno rilasciato il permesso di guida. Lei, allora, lei ha 80 anni. Alla Carlona, sì. Intervenite sui medici che sbagliano. Quello è il problema, non intervenire sui... Vabbè, la sua quella della sfida di regolarità è stata una provocazione, non so se la vuole lanciare veramente. No, qui. No, la voglio lanciare, la vorrei lanciare su un percorso che è difficile, che è quello dell'Aurelia. L'Aurelia si passa da 60 all'ora a 70 all'ora, da 70 all'ora a 90 all'ora, da 90 all'ora a 110 all'ora. Bisogna avere i riflessi pronti, perché se lei non scatta immediatamente la velocità c'è la multa oppure c'è anche il ritiro di patente. Quindi è un percorso oggi difficile. Interessante. Vi assicuro che ci vogliono i riflessi pronti per farlo. Allora, Presidente, io credo di avere ancora dei riflessi. Presidente, pronti. Lei tra l'altro ha 80 anni, lo ricordiamo. Presidente Valducci, adesso al di là della sfida che non so se vuol raccogliere sull'Aurelia, la questione che pone anche Alfredo Diana è appunto, prendetela, se la prende anche lei con il medico che ha permesso il rinnovo della patente per 3 anni a suo padre o a tutto quello che fanno i medici, e no, perché se la si prende invece con gli ottantenni, con l'età, insomma, col limite d'età? Allora, devo dire, innanzitutto saluto sia Margherita Hack che Alfredo Diana. È chiaro che io ho detto fin dall'inizio la mia è voluta essere comunque una provocazione, perché poi il legislatore deve traguardare anche gli orizzonti temporali del futuro, insomma, non solamente quelli del presente. E io penso che sia emerso già da questo giro due cose. La prima cosa è la necessità, probabilmente, questo rivolgo la domanda anche agli interlocutori, penso dopo una certa età, di frequenze non più ogni tre anni, ma addirittura minori, cioè annuali, potrebbe essere un anno o due anni. La seconda cosa, sicuramente è vero quello medico, per quanto riguarda il caso di mio padre, io ho detto mio padre soffre di questa infiammazione agli occhi, quando ha fatto la visita stava bene, evidentemente, certo. Non è andato a farla quando aveva delle settimane di infiammazione. Comunque, detto questo, sicuramente il tema delle visite mediche approfondite è assolutamente fondamentale e sicuramente c'è troppa leggerezza nel rilascio dei certificati, addirittura nei casi di persone più giovani talvolta vengono rilasciati così, guardando la persona, senza neanche sottoporlo ad alcun tipo di visita, e quindi questo sicuramente non va bene a qualsiasi età. Il ministro Sacconi ha ricordato che bisognerebbe legare questo limite massimo all'età biologica anziché all'età anagrafica, e questo è sicuramente giusto. È chiaro che è molto più complesso andare a verificare questa cosa, per cui insomma la mia domanda agli interlocutori è maggiori frequenze, oltre ovviamente a cercare di prevedere degli esami. Vediamo, insomma, diciamo esami ogni anno magari. Intanto io voglio salutare anche Maurizio Caprino, che ci sta ascoltando, nostro collaboratore Maurizio del Sole 24 Ore, grande esperto di sicurezza stradale. Tra poco sono da te, però vorrei anche concludere nel salutarla e ringraziare la Margherita Hack, così poi la liberiamo. Che ne pensa di magari una visita ogni anno, o piuttosto? Direi ogni due anni basterebbe, soltanto visite più serie. Più serie. Sì. Lei la visita com'è andata la sua? Cioè, nel senso, è stata seria oppure no? Com'è? All'ultimo rinnovo la sua visita è stata seria oppure no? Beh, diciamo media. Media. Non serissima. Non serissima. In ogni caso io la ringrazio per essere stata con noi, Margherita Hack. Voglio andare da Maurizio Caprino. Maurizio. Ovviamente poi ci sono tantissimi ascoltatori su questo tema, Giuseppe da Napoli, Francesco da Torino, Pier Romano, da Vedano all'Ambro, adesso sono anche da voi dopo il traffico. Vorrei capire se quella che Balducci dice è anche un po' la provocazione, però è una provocazione che coglie anche nel segno, cioè toccare un problema che c'è, magari anche statistiche alla mano. Maurizio. Sì, diciamo le statistiche poi possono anche un po' tradire, perché si parla di numeri assoluti, mentre invece bisognerebbe rapportare gli incidenti in base ai chilometri percorsi da ogni categoria di utenti, e sicuramente gli anziani i chilometri non ne fanno molti, ecco perché risultano essere meno sinistrosi rispetto agli altri. In ogni caso il problema si pone, basta vedere per esempio i casi di contromano in autostrada, molto spesso purtroppo ci sono di mezzo degli anziani. Allora come si fa? Sicuramente appunto fare esami più seri, visite più serie e più frequenti, assolutamente giusto quello che è stato detto finora, però bisogna aggiungere un'altra cosa, perché come ci dimostra anche il caso del padre del presidente Balducci, lui stava benissimo al momento della visita, però soffre di questa malattia periodica, questa malattia la conosce il suo medico curante, quindi ci vuole il famoso certificato anamnestico fatto dal medico curante, che attesti appunto quali sono le malattie croniche di cui ciascuno soffre. Cioè il medico curante avrebbe dovuto dire, il medico curante, non rinnovatela perché soffre di questa patologia. Caro collega che fai la revisione della patente, sappi che soffri di questa patologia, poi decidi tu, però intanto devi saperlo e te lo posso dire solo io. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, porre un limite massimo di età, che ne so, 80-85 anni alla patente, c'è da dire che prevalgono in all 60% come voti su Radio24.it. Arrivano tantissimi messaggi di gente che dice: la mia ultima visita, mi hanno detto così, ci vedi? Ci senti? Ok, vai, rinnovo della patente. Altri che dicono: l'ho fatta con autocertificandomi praticamente, non mi hanno neanche controllato la vista e porto gli occhiali, per esempio ci scrive Mauro. Che dire, voglio dire, bello, interessante questo mondo del rinnovo, delle visite e rinnovo della patente. Sentiamo qualche ascoltatore. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Che eco. Buongiorno. Mi risento, insomma. Spenga la radio, Giuseppe. Quanti sì, anni signore, ha? Signore, la spengo. Ecco qua. Quanti anni ha? Allora, 83. Guida? Certo. E certamente meglio di molti altri, non per fare il buffone, ma molti altri automobilisti di Napoli. Perché in è particolare, più prudente lei. I sorpassi sulla destra vengono effettuati dagli altri, io non mi permetto mai. Osservo sempre il semaforo e cerco di guidare nel miglior modo possibile. Mm. E sono perfettamente d'accordo con chi vuol fare in modo che gli esami siano più scrupolosi. In effetti, quello che ho fatto 4 mesi fa è stata una barzelletta. Del tipo? Signor Giuseppe, guardi qua, va bene? D'accordo, arrivederci e grazie. Quindi il problema è che lei dice sono quello degli esami. Va bene, grazie Giuseppe, voglio andare a Francesco, a Torino, da Francesco, buongiorno. Pronto? Dica Francesco. Buongiorno. Che pronto, ne pensa? Mi sente? Benissimo, che ne pensa lei? Guardi, io sono in strada praticamente tutti i giorni per andare in ufficio. A Torino, guardi, è un continuo. Gli incidenti sono un classico, spesso sono gli anziani, ma spesso sono anche gli altri automobilisti, naturalmente. Ma questo non è un problema riferito proprio a una categoria o un'altra. Il problema è diverso. Il problema è stabilire, innanzitutto, secondo me. Scusi se non la sento molto bene. Noi la sentiamo benissimo, vada avanti. Mi scusi, rapidamente, il problema è stabilire delle regole riferite anche al limite di età e accettarle, perché è oggettivo che superato un limite di età ci sono dei problemi sensoriali e di altra natura. Comunque, a prescindere da questo, certamente c'è un problema con i medici che fanno queste visite, devono essere assolutamente più seri, perché sennò vabbè. Però lei dice è giusto mettere un limite, sì, perché l'ultima cosa però, sì. I limiti ci devono essere, ci devono anche essere per altri corrispettivi, nel senso che se tolgo la patente a una persona che non può più guidare, devo dare sicuramente a questo punto delle alternative, perché ne hanno diritto a una mobilità. Questo tra l'altro è un problema interessante, perché Presidente Valducci, molti ci scrivono, ma io non so, magari vivono un po' isolati, dipendono dalla macchina, in maniera, fanno anche magari quel tragitto di 10 km al giorno senza però la macchina, la loro vita sarebbe compromessa in cose fondamentali. Cioè, se uno dovesse mettere un limite, ipotizziamo questo limite, poi che facciamo a un 85enne che è in perfetta forma fisica, potrebbe guidare e si vede tolta la patente di colpo? Valducci. Eccomi. Allora, mi sembra che dal giro sia stato molto utile, perché sono usciti diversi contributi, come quello del medico curante che deve dare quantomeno il proprio parere o deve essere consultato. È emerso il grande problema delle visite mediche e a mio modo di vedere comunque rimane sull'orizzonte anche il profilo, diciamo, di un'età magari più biologica che non anagrafica, ma questo rimane. Per quanto riguarda quindi le conclusioni a cui sono arrivato io, e devo ringraziare i tantissimi cittadini che mi hanno scritto, oltre a quelli che hanno potuto inviare le loro lettere che sono state pubblicate ai direttori dei quotidiani, è quello che penso che si possa tra i 70 e gli 80 anni scendere a delle frequenze mediche ogni due anni, prevedendo, come ricordava diciamo l'esperto di sicurezza stradale, il discorso anche della consultazione del medico curante. E dopo gli 80 anni magari passare anno, perché penso che... No, ma nel caso però, Presidente, nell'ipotesi di un limite d'età, nel senso si dovesse decidere a 85 anni via la patente, ripeto, quegli anziani che per i quali ma la macchina è fondamentale... Lo so, e questo è un problema che però potrebbe capitare anche a un settantenne che abita, diciamo, lontano e che alla visita medica non gli viene rinnovato il certificato e quindi non ha la possibilità di rinnovare la patente già oggi. Quindi sicuramente ci sono alcune fattispecie che, diciamo, complicata complicata la vita dei cittadini. È anche vero, guardi, che io ho ricevuto, così come ho ricevuto giustamente tante critiche, diciamo, costruttive sempre da persone grandi, io ho ricevuto telefonate entusiastiche dei figli che mi hanno detto vai avanti, resisti. Perché dice le persone grandi, lo dica, gli ultra ottantenni si sono imbufaliti nei suoi confronti, le hanno scritto su Facebook. Mano a mano che uno avanza nell'età, no, io mi ricordo quando ero bambino, avevo 8-10 anni, mi sembravano anziani i quarantenni, adesso che ne ho 51 mi sembrano grandi gli ottantenni. Capite, no, le chiama persone, Alfredo Diana la chiama persona grande, insomma, che è anche una cosa positiva, non dice gli ultra ottantenni, le persone grandi. Dice Valducci. Posso intervenire, sì, ancora? Dica, dica. Diana? Dica. Sì, dica. Senta, io vorrei fare un'altra sfida all'onorevole. Faccia fare dall'associazione delle assicurazioni un elenco di quelli che sono gli incidenti che vengono provocati in relazione all'età. Perché se è vero come è vero e come risulta che il 10% degli incidenti mortali sono stati provocati da giovani al di sotto dei 20 anni, allora sarebbe il caso di sapere cosa è successo a quelli che ne hanno 30, a quelli che hanno 40, a quelli che ne hanno 50. Però è anche vero questo. Sicuramente le assicurazioni lo sanno. È anche vero, però. Gli incidenti vengono normalmente classificati. È anche vero, però, Diana, come ci diceva prima Caprino, che bisognerebbe fare la relazione in base ai chilometri percorsi, perché chiaramente forse le persone anziane sono meno in strada rispetto alle persone più giovani. Voglio andare però da Pier Romano, da Vedano all'Ambro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei quanti anni ha? 82. E guida? Faccio 30.000 chilometri l'anno. 30? Accidenti, quindi io dico, ecco, uno che ne fa... È un'idiozia, scusatemi, ma è un'idiozia parlare. Bisogna guardare, secondo me, le caratteristiche fisiologiche effettive della persona, mica l'età. L'età cosa vuol dire? Mio nonno è morto a 70 anni, ma decrepito. Oggi si vive fino a 100 anni e in attesa di una vita anche piena di soddisfazioni. Io in questo momento, ieri ho fatto 350 chilometri per andare in barca, ma scusatemi, non si può generalizzare come dice l'onorevole Valducci. I giovani sono loro che provocano più incidenti. Quando uno ha una certa età è più serio, è più maturo. E non incretinisce. Oddio, certo, è giusto quello che si dice, prima si è parlato di controlli medici più accurati. Questo sicuramente, sì. Ma questo bisognerebbe arrivare a un esame psicofisico, un esame che su strada. Però lei dice porre questi limiti così tu cura è sbagliato. Oh, vabbè, insomma, avete visto quanto è varia la tipologia degli interventi. Io devo fermarmi, ringrazio tutti, al presidente Valducci che è stato un po' accerchiato da tante persone grandi oggi che hanno risposto a lui, grazie anche al nostro Maurizio Caprino, Alfredo Diana e Margherita Hacca per essere stati con noi. Allora, do la linea a Oscar Giannino, parliamo di politica con Oscar alle 9, di rapporti anche Berlusconi, Fini, ringrazio Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, che dire, ci sentiamo domattina alle 7.30, a domani.